Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda l'Italia, già i nostri GR vi hanno raccontato dell'asta oggi dei titoli di Stato CTZ, soprattutto, ma allora l'asta è andata bene, però i tassi sono risaliti, quindi quello che l'Italia ha dovuto offrire per trovare compratori per il suo debito è stata una cifra più alta. L'interesse infatti sui CTZ è salito ai massimi dal settembre del 2012 al 2,4%, per dare quindi quello che l'Italia deve pagare per trovare compratori. Per dare un'idea di quanto sia salito, a maggio noi abbiamo dovuto offrire solo l'1,1%, quindi è raddoppiato l'interesse, il costo per lo Stato nel trovare compratori per il suo debito, oggi collocati 3 miliardi e mezzo del nuovo CTZ a 24 mesi e quindi a 2 anni. Timori per la crescita sull'Italia, ha detto oggi il direttore generale del debito del Tesoro Maria Cannata durante una conferenza a Londra. Quello che preoccupa gli investitori è soprattutto il basso tasso di crescita. E lo spread di conseguenza è aumentato, è salito a 310 punti, poi è rallentato, il rendimento dei BTP a 10 anni al 4,82%. Sempre la Cannata, quindi il direttore generale del debito del Tesoro, ha detto che lo spread in rialzo è probabilmente temporaneo, però parleremo di questo nella seconda ora del programma, anche perché fa molto discutere il rapporto di Mediobanca. Anche qui io lo dico senza polemica, però Mediobanca Securities ha emesso un report, un'analisi a firma dell'analista Antonio Guglielmi, che ha fatto il giro ieri dei siti. Doveva essere una cosa riservata a alcuni clienti di Mediobanca. Il problema è che queste cose riservate, se poi iniziano a circolare, è meglio rendere pubbliche a tutti, a mio avviso, perché sennò si creano elementi di incertezza, per non dire di panico. Perché lo dico? Perché il report firmato dall'analista Antonio Guglielmi è finito oggi anche sul quotidiano britannico Daily Telegraph, nei giorni scorsi lo avevano anticipato altri quotidiani italiani. E perché, cosa dice questo rapporto? Dice che fra 6 mesi l'Italia è a rischio default senza interventi massicci e potrebbe essere costretta a chiedere aiuto all'Europa per un piano di salvataggio. Più che potrebbe essere chiesta, in realtà nel report, da quello che si è capito, l'analista dice sostanzialmente che l'intervento europeo sarà inevitabile a preoccupare soprattutto il differenziale di rendimento tra BOT e BTP prossimi a scadenza, servirebbero interventi per mettere il paese in sicurezza per 70 miliardi di euro, e viene paragonato dall'analista l'attuale situazione viene paragonata a quella dell'uscita dell'Italia dalla banda di oscillazione europea, il serpente monetario europeo, come si chiamava, nel 92. Chi ha una certa età se lo ricorda. Solo che quella crisi fu superata grazie a una forte svalutazione dell'Italia, adesso non sarebbe possibile. Allora, su questo oggi c'è un intervento anche di Emma Marcegaglia, in quanto neo presidente della Confindustria Europea, che dice: chi parla di fallimento dell'Italia non sa quel che dice. Ma in sostanza, o questo report lo possiamo leggere anche noi, o restava veramente ai pochi clienti di Mediobanca. È successo un pastrocchio, perché è uscito sui siti parziale, non in tutta la sua analisi, e rischia di fare più danni che altro. Questo è il primo tema. Il secondo tema che tratteremo subito in apertura riguarda l'inchiesta sul mondo del calcio, perché la Guardia di Finanza ha perquisito, come alcuni di voi sanno, 41 squadre di Serie B e ha per acquisire la documentazione relativa soprattutto ai contratti tra i club, i calciatori e i procuratori, e cercheremo di capire quale sia l'orientamento delle indagini. Poi, come sempre, i mercati finanziari, di mercati ma anche di scenario mi riferisco non solo all'asta di oggi, ma alle tensioni che arrivano dall'Asia, alle preoccupazioni sui mercati, perché la Banca Centrale Americana ha fatto sapere che a breve inizierà ad avere una politica più restrittiva, quindi meno accomodante. Di tutto questo parleremo anche con un responsabile di investimenti. Dicevo della borsa, meno 0,30% Milano in questo momento, mentre Parigi fa più 1,40%, Francoforte più 1,5%, Londra più 1,30%. Perché? Perché, come immaginabile, con lo spread, con il report di Mediobanca e con tutte le tensioni sul fronte monetario, vanno male oggi le banche. La Popolare Emilia Romagna perde il 6,48%. Effetto spread, effetto CTZ. La Popolare di Milano perde il 5,50%, Fondiaria il 4,5%, Mediobanca il 4,11%, Banco Popolare meno 2,60%, Monte dei Paschi meno 2,30%, Ubibanca meno 2%. Il fronte opposto invece vede andar bene Tenaris più 3,70%, Diasorin più 3,50%, Prismian più 3%, Fiat più 2,70%, Ferragamo più 2,5%, Mediaset più 2%, Atlantia più 1,90% come Azimut e Tods. Come sentite, non c'è nessun bancario tra i titoli che vanno bene, sono tutti titoli o industriali o in qualche modo anticiclici o legati al lusso. 349-238-6666 per i vostri sms e, come sempre, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in borsa e in breve. Allora, per quello che riguarda le altre, vedo molti messaggi. Abbiate un po' di pazienza, nel senso che arriveremo anche ai temi. Molti citano Grillo, che ha detto l'Italia è tecnicamente fallita da settembre. Noi l'abbiamo criticato, ma non... Attenzione, ognuno può dire quello che vuole. L'importante è giustificare e argomentare la tesi. Così come critichiamo Grillo, critichiamo anche il report di Mediobanca, ripeto, e il modo anche in cui è uscito. Anche a mio avviso parlare di Italia a rischio fallimento entro 6 mesi, detta così, è un po' un discorso da bar, perché o spieghi in che termini, cosa capiterebbe all'euro, è ovvio che senza l'Italia l'euro non esiste. Allora facciamo un ragionamento, detto così, un ragionamento sul semplicemente differenziale di rendimento tra BOT e BTP, quindi lo spread alle prossime scadenze del 31 luglio, e anche l'idea che l'Italia chiederà aiuto, vanno argomentate, se no si finisce solo per generare panico. Un altro tema di mercato riguarda oggi l'oro. Perché? Perché l'oro sta seguendo le tensioni e le preoccupazioni dell'economia mondiale, il rallentamento cinese, il fatto che l'America avrà una politica monetaria più restrittiva, e infatti è sceso a 1.277 dollari l'oncia, praticamente al livello più basso da 2 anni a questa parte. Venir meno o ridimensionamento degli stimoli da parte della Banca Centrale Americana e appunto bassa crescita cinese sono i due elementi citati come all'origine di questo calo dell'oro. E che l'America stia crescendo tanto da portare la Banca Centrale Americana a immaginare di tirare la briglia più di quanto non abbia fatto, ce lo dice oggi anche l'indice Schiller sui prezzi delle case nelle maggiori 20 città americane. Sono saliti i prezzi delle case nelle 20 maggiori città americane del 12% rispetto a un anno fa e del 2% rispetto a marzo, e questo dato, tutti i due dati sono superiori alle attese degli analisti. In aggiunta, oggi il dato che misura la fiducia dei consumatori americani è salito al livello più alto da 5 anni, da ben prima dello scoppio della crisi inteso come fallimento di Lehman Brothers. È salito infatti a livello più alto dal gennaio del 2008. E la fiducia dei consumatori è propedeutica, è fondamentale per arrivare poi all'andamento dei consumi. Infatti anche in America i consumi rappresentano più o meno il 70% del PIL. La Cina, ce ne siamo occupati ieri, la Banca Centrale Cinese oggi ha annunciato che sosterrà tutte le banche nazionali a corto di liquidità, nel senso che hanno prestato soldi su indicazione anche politica, come spiegavamo ieri. Se le banche avranno ammanchi temporanei di denaro, ha detto la banca centrale cinese, la banca le sosterrà con iniezioni di liquidità. Veniamo all'Europa, perché oggi il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi a Berlino, alla giornata del Consiglio Economico della sede UE, è intervenuto e ha detto: grazie al programma OMT, il programma Salva Stati, lo scudo antispread, l'area euro oggi è un luogo più stabile e sicuro su cui investire rispetto a un anno fa. I governi nazionali non possono scegliere fra il programma OMT e le riforme, e cioè l'aiuto della Banca Centrale Europea arriva solo quando uno Stato si impegna a fare le riforme, e allora può chiedere l'aiuto. La Banca Centrale Europea, ha contenuto Draghi, userà le misure standard, ma anche quelle non standard, ma tutte basate sullo statuto della Banca Centrale Europea. E poi ha precisato che, a differenza di quanto non abbia detto il suo collega americano Ben Bernanke, in Europa l'uscita da una politica accomodante, quindi tassi bassi e facilità di dare liquidità, è ancora molto lontana, perché l'Europa, a differenza dell'America, è ancora in piena stagnazione / recessione. E poi una stoccata ai tedeschi, ha detto, insomma, attenzione, le aspettative sull'inflazione, la cosa che preoccupa molto i tedeschi, che vorrebbero che la BCE si occupasse solo di inflazione, le aspettative sull'inflazione confermano che l'euro è stabile e, attenzione, l'incertezza resta, aspettiamo una ripresa più tardi durante il 2013. E poi ha definito cruciale l'unione bancaria, cruciale per il sistema europeo. Allora, vedo molti messaggi sul rischio default. Ripeto, uno può dare tutti i giudizi che vuole, ma deve argomentarli un po' meglio, e poi non è il modo di far uscire un report riservato ad alcuni clienti su tutti i giornali. A questo punto Mediobanca ce lo dia e lo pubblichiamo. Su questo, comunque, sul ritorno delle tensioni sui mercati sui titoli di Stato, è intervenuto questa mattina anche il Presidente del Consiglio Enrico Letta, esprimendo preoccupazione e anticipando anche quelli che saranno i temi del prossimo vertice europeo di giovedì e venerdì, quello in cui si dovrebbe discutere di crescita. Porrò l'accento una volta ancora sul dramma del lavoro che non c'è, sugli oltre 15 milioni di ragazzi senza un'occupazione, una prospettiva, un'opportunità di realizzazione, sull'Europa che o dà risposte concrete e immediate a problemi epocali come quelli che viviamo, oppure lentamente muore. Un'Europa che stenta ad uscire dalla recessione, nella quale il livello degli investimenti pubblici è crollato negli ultimi anni e il rubinetto del credito bancario si è contratto drasticamente in alcuni Stati membri. Un'Europa che non riesce a riprendere velocità e nella quale le ombre sulla tenuta della moneta unica non sono ancora state fugate del tutto. Sono bastati negli ultimi giorni le notizie arrivate da due posti così lontani e diversi tra loro: Karlsruhe, sede della Corte Costituzionale tedesca, Atene, con la decisione del governo greco di chiudere la televisione pubblica, per dare il segno che la crisi non è ancora finita, per riportare immediatamente l'attenzione sui mercati, far salire i tassi di interesse sul nostro debito e su quello degli altri paesi europei. Allora, molti ascoltatori dicono: attenzione, tutto pronto per il haircut, per il taglio, come è avvenuto in Grecia, del debito italiano, che non è una bella notizia, vuol dire che chi ci ha prestito i soldi ne riceverebbe di meno. Taglio di capelli in inglese, per cui non lo so, io non sono così convinto che l'Italia debba chiedere soldi. Molti dicono: i 2.000 miliardi di debito non sono un argomento sufficiente. Sì, ma tu puoi reggere il debito e il deficit se il PIL torna a crescere, attenzione, se no torniamo al discorso di qui sopra, puoi tagliare quanto vuoi il deficit, ma siccome è un rapporto deficit su PIL, quello che interessa, se il denominatore continua a ridursi, puoi tagliare quanto vuoi, ma avrai sempre un rapporto deficit PIL alto. Se invece fai crescere il denominatore, puoi permetterti un deficit nominale anche più alto. Il problema, a mio avviso, è tutto nella crescita. Va bene tagliare le riforme, chiedono alcuni cosa sono. Sì, anch'io di riforme, sono quelle delle pensioni l'abbiamo fatta, maggiore concorrenza, sburocratizzazione, i punti della Banca Centrale Europea, maggiori liberalizzazioni, tutto giusto, tutto è tutto buono, però non è così, non è in, con le riforme che in 4-5 mesi facciamo ripartire l'economia. Andiamo avanti, il presidente Confindustria Squinzi oggi ha stimato la recessione per il 2013, per l'anno peggiore delle attese, meno 1,5% almeno, sempre che nella seconda parte dell'anno vi sia il miglioramento atteso. Se non vi sarà il miglioramento atteso, il calo del PIL sarà anche più pesante. Non c'è più tempo, ha detto Squinzi, servono le soluzioni. E tra poco l'Italia uscirà definitivamente dalla procedura di infrazione per il debito eccessivo, ma non vorrei, ha aggiunto il presidente Confindustria, che ci mettessero in qualche condizione di contorno per essere sotto una sorveglianza indiretta, quindi una tutela indiretta anche se non ufficiale. Cambiamo tema, stop immediato agli aumenti previsti per le tariffe merci dei traghetti Tirrenia, Cinda e per la Sardegna, nessun rincaro per i passeggeri, lo ha annunciato oggi il ministro dei trasporti Maurizio Lupi assieme al governatore della Sardegna Ugo Capellacci e all'amministratore delegato di CIN Ettore Morace dopo un incontro al ministero. Da domani vengono bloccate l'aumento delle tariffe merci fino al 17 luglio per verificare appunto se esiste la possibilità di, rivedendo la convenzione e con la disponibilità da parte di tutti, di arrivare a quell'obiettivo che vi abbiamo detto. Tutto deve avvenire ovviamente all'interno del percorsi e dei contenuti che l'antitrust non solo aveva tracciato, ma aveva, approvando quella convenzione, messo i cosiddetti paletti che ovviamente noi tutti vogliamo rispettare. Il vantaggio della nostra azione deve essere in un efficace collegamento di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e il resto del nostro paese e ovviamente speriamo anche con gli altri, sulle merci con gli altri paesi. Torneremo sui temi delle minacce europee. Io vi giuro, un'altra estate come quelle scorse non ce la posso fare. Che gli investitori di mercato, la massa degli investitori va in vacanza, restano pochi investitori, le operazioni si fanno più velocemente, i titoli si muovono con più facilità, però no, un altro attacco speculativo d'estate no. Comunque, questo programma resta in diretta anche quest'estate, quindi cambia poco, vedo le facce un po' perplesse dall'altra parte del vetro. Andiamo avanti, buone notizie dalle Ferrovie dello Stato, perché oggi Mauro Moretti ha detto siamo in un mercato competitivo, in Italia lo siamo in senso pieno perché c'è anche l'alta velocità, eppure in queste condizioni siamo riusciti a vantare i migliori conti economici d'Europa, adesso vogliamo essere un'azienda vincente e siamo diventati cacciatori di mercati. E poi ha aggiunto abbiamo risanato i conti, adesso abbiamo i soldi per potenziare gli investimenti in autofinanziamento. Poi ha ricordato Moretti che fino adesso sul trasporto regionale sono stati investiti 2 miliardi e 200 milioni di euro. Ma mentre il paese, i mercati si interrogano sul destino del debito italiano, mettiamola così, molti calciatori si interrogano su quello che è successo alla Serie A e alla Serie B. 41 squadre perquisite oggi tra Serie A e Serie B. L'indagine è condotta dalla Procura di Napoli, cito le società, presso le quali la Guardia di Finanza ha acquisito documenti sono Chievo, Milan, Inter, Siena, Roma, Fiorentina, Atalanta, Pescara, Genoa, Juventus, Torino, Parma, Lazio, Napoli, Udinese, Sampdoria, Palermo, Catania, Cesena, Bari, Livorno, Brescia, Reggina, Crotone, Juve Stabia, Spezia, Ternana, Grosseto, Vicenza, Gubbio, Benevento, Portogruaro, Mantova, Foggia, Andria, Lecce, Cosenza, Piacenza, Triestina, Lecco e Albino Leffe. Noto che manca l'Hellas Verona, ma sono di parte nel notare questo. 12 procuratori coinvolti nell'indagine appunto dei magistrati napoletani. I reati ipotizzati sono dall'associazione a delinquere, l'evasione fiscale internazionale, fatture false e riciclaggio. Per capire di più, l'esperto non solo di aviazione ma anche e soprattutto di bilanci delle società calcistiche, Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera Sebastiano, buonasera ascoltatori. Allora, che cosa vuol dire i reati ipotizzati dall'associazione a delinquere, l'evasione fiscale internazionale, fatture false e riciclaggio? Quindi è il ruolo dei procuratori quello che è soprattutto sotto inchiesta? Evidentemente sono sotto inchiesta. Ti sento male Gianni. Operazioni di, penso, di trasferimento di calciatori, perché si parla di procuratori, si parla di evasione fiscale, quindi come se, cioè da quello che è trapelato, come se ci siano state fatte delle operazioni che hanno portato a eludere il fisco, quindi potrebbero esserci operazioni fatte con controparti estere o in nero. Dico, queste sono ipotesi, ma quando si parla di evasione fiscale internazionale, l'associazione per delinquere, chiaramente, perché evidentemente è un numero superiore a 3, da 3 in poi scatta il reato associativo. Comunque in generale io me l'aspettavo da qualche settimana, perché se andiamo a vedere, quasi ogni anno, poco dopo che è finito il campionato, parte una raffica di perquisizioni, inchieste, indagini, poi quando il campionato riprende a settembre, ottobre, non succede più nulla, come se ci fosse l'interruzione delle indagini, e poi l'estate successiva tutto riparte. Cioè, mi stai dicendo che ci sono delle indagini della magistratura sensibili al campionato? Quasi che durante il campionato non si disturba, si fermi un po' la stagione della giustizia, certamente anche della giustizia sportiva, perché ad esempio sullo scandalo scommesse che l'anno scorso aveva visto per esempio anche la sospensione per qualche mese di Antonio Conte, eccetera. Poi dopo ci sono degli altri indagati che non sono ancora stati processati, per esempio un calciatore della Lazio, ricorderete, Mauri. Sì, ma tu sei molto malizioso e cattivo, perché in realtà il tuo ragionamento vorrebbe dire che siccome i romani dicevano pane circenses, no? Sì. Pane giochi, qua pane ce n'è poco con la situazione economica, sì. Almeno lasciateci giochi, tu dici, siccome poi il calcio ha un impatto sociale anche per la politica e per l'ordine costituito delle cose, secondo te c'è un'attenzione particolare? C'è un impatto sociale, politico e anche economico, perché il calcio macina comunque degli incassi elevatissimi, anche se le squadre professionistiche nel complesso hanno nei bilanci, almeno in quelli ufficiali, dei deficit molto alti, nel complesso alcune meno, evidentemente se ci fossero degli interventi molto incisivi, pesanti durante il campionato, probabilmente questo tipo di spettacolo e di incassi ne potrebbe risentire. Comunque se vediamo, le azioni partono sempre durante l'estate e poi c'è la quiete. C'è da chiedersi perché si fermi sempre tutto. Allora, intanto ha ragione un ascoltatore, manca anche il Cagliari. Io ho fatto la battuta sull'Hellas Verona, il Cagliari non c'è. Adesso non posso fare il raffronto con tutti quelli che mancano, però sono oltre 50 gli accordi tra società di calcio, procuratori e giocatori su cui sta indagando la Guardia di Finanza. Tra quelli, per esempio, quello dell'ex attaccante del Napoli Lavezzi e del centrocampista del Milan Nocerino, anche sulle passate stagioni della Fiorentina, appunto. Il presidente dell'Inter Moratti ha detto non c'è nulla di preoccupante. Però, secondo te, al di là che se si fermerà o meno per il campionato questa indagine, dove potrebbe portare, Gianni? L'indagine, da quello appunto che ci è trapelato oggi, credo che riguardi anche i 6 bilanci, se i bilanci sono regolari o no, perché se qualcosa non è stato segnalato potrebbe portare anche può portare a molte cose. Adesso se c'è evasione fiscale può portare delle incriminazioni più pesanti di procuratori, anche di legali rappresentanti, di amministratori di società. È un'indagine che poi può avere anche un riflesso sportivo, ma innanzitutto c'è quello, diciamo, penale. Però, ecco, quindi... diciamo, il reato principale, poi vedremo gli altri, perché l'associazione a delinquere poi andrà stabilita. È collegata però, agli altri reati. Ecco, il reato principale è comunque quello delle condotte finalizzate all'evasione dell'imposta sui redditi, no? Elusive, esatto, di imposizione tributaria, cioè un giro per evitare di pagare tasse quando si compra o si cede un giocatore, se ho capito bene, Gianni. Può essere sulle cessioni, siccome si parla di una cinquantina di operazioni, ed eventualmente anche sugli stipendi. Per esempio, intanto si parla di calciatori stranieri, almeno alcuni uno dei casi più noti che hai ricordato, cioè quello di Lavezzi, per esempio. Quindi potrebbe riguardare, dico potrebbe perché non ci hanno fatto sapere di più, anche il pagamento degli stipendi. Poniamo che gli stipendi siano pagati all'estero, no? Quindi in nero. Potrebbero esserci cose di questo tipo, sia il calciomercato sia il pagamento del compenso. I procuratori ricevono una percentuale che in media è del 5% del valore delle operazioni, non solo sul trasferimento ma anche sullo stipendio, quindi i procuratori in pratica sono una tassa sullo stipendio che si aggiunge alle altre, quindi se c'è di mezzo il procuratore può riguardare entrambi i profili. Allora, non sono d'accordo con chi scrive, ecco, Equitalia non c'è mai nelle grosse evasioni, invece trattasse il povero. In questo caso la Guardia di Finanza si è mossa proprio sull'ipotesi di grande evasione / elusione. Adesso non sappiamo ancora quali saranno poi, a che cosa arriverà l'inchiesta. No, su questo non sono d'accordo, però intanto ringrazio Gianni Dragoni, poi deve iniziare una lunga pagina di mercati, tensioni sull'euro / sull'Italia soprattutto. E quindi ne avremo fino alla fine del programma. Grazie Gianni, il meteo, la pubblicità e poi torniamo in diretta. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa e poi di quello che sta capitando sui mercati. C'è qualcuno che dice che non devo usare il termine barra, vabbè, non userò più il termine barra, mi sembrano altri problemi in questo momento. Andiamo con ordine, partiamo dai mercati finanziari, o meglio dall'asta oggi dei CTZ. È andata bene come collocamento, tutti collocati i CTZ in scadenza a 2 anni, però il tasso è salito molto, è raddoppiato rispetto a un mese fa, rispetto a maggio, e quindi l'Italia, come spiegavamo all'inizio del programma, per trovare compratori per il suo debito ha dovuto offrire un rendimento superiore al 2% per i CTZ, 2,4% contro l'1,1% di maggio, siamo oltre il doppio. Impatto immediato sullo spread, impatto immediato anche sulle borse e sui titoli bancari, e ne parliamo come sempre con i colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore, nel caso specifico oggi con Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Vabbè, è chiaro, quando le tensioni sono sullo spread, lo diciamo ogni volta, e sui tassi di interesse e sui rendimenti del nostro debito, le banche ne risentono. Popolare Emilia Romagna -6,56, Popolare Milano -5,50, Mediobanca -5, Fondiaria -4,20, Monte dei Paschi -3,80, Banco Popolare -2,80 e ancora Ubibanca -2%, Unicredit -1,20. C'è qualche distinzione all'interno di questo calo generalizzato, Ceo? Ma guarda, l'unica distinzione che possiamo trovare è quella della Banca Popolare di Milano. Una banca che già ieri aveva perso parecchio terreno, se non mi sbaglio, oltre il 7%, questo è in conseguenza di quella che è stata insomma l'assemblea dell'ultimo weekend, in cui poi c'è stata anche la nomina di Giuseppe Coppini al consiglio di sorveglianza, una nomina che ha tutto sommato chiuso il cerchio di quella che è stata la rielezione, insomma quella che doveva essere la riforma della governance della banca. In realtà riforma non è stata, perché la banca non diventerà una SPA, e tutto, insomma, tutta la scommessa del mercato, tutto il grande rialzo delle ultime settimane si è poi andato a vanificare negli ultimi giorni e anche in queste sedute, visto che il mercato ormai si è reso conto che poco cambierà in questo istituto. In più c'è anche il faro della Consob, perché insomma sembra che attorno alla nomina di Giuseppe Coppini ci fossero anche insomma dei giochi di potere che ci sono ancora da accertare. Insomma, gli investitori hanno preferito servire il titolo, così come anche, come dicevi tu, i principali titoli finanziari, a causa di uno spread che è oltre 300 punti base. Quindi diciamo cali tra virgolette indistinti, anche se appunto poi le differenze ci sono. Vedo che oggi però ha tenuto tutto il settore industriale e anche del lusso, nel senso che Ferragamo ha fatto più 2,30%, Tod's più 1,80%, Tenaris bene più 3,46% e in pregilo, dopo la presentazione del piano di fusione con Salini. Tra l'altro anche Atlantia va bene più 2%, Mediaset più 1,80 dopo il brusco calo di ieri. Mediaset ieri aveva perso parecchio terreno in conseguenza della sentenza che aveva colpito Silvio Berlusconi. Non lo scopriamo certo oggi che i destini borsistici di Mediaset siano poi legati a filo incrociato a quelli insomma dell'ex presidente del Consiglio, sia dal punto di vista elettorale sia da quello giudiziario. Oggi Mediaset comunque, a seguito del crollo di ieri, ha avuto un rimbalzo importante, che era anche più consistente a metà seduta, poi pian piano quando Milano ha cominciato a perdere terreno, a differenza dei principali listini continentali che invece hanno chiuso in territorio positivo, Mediaset si è un po' sgonfiata, comunque ha chiuso a più 1,8%. Parlavi di Impregilo oggi è stato il miglior titolo di Piazza Affari in assoluto, ha guadagnato il 18%, il giorno dopo il via libera ufficiale alla fusione con Salini, un via libera che è stato anche accompagnato dal nuovo piano industriale del gruppo al 2016, che prevede in questo caso, come in tanti altri, si snocciolano grandi cifre, giro d'affari a oltre 7 miliardi e EBITDA 1 miliardo, insomma vedremo se poi anche a fronte di una crisi economica che non sembra risolversi, questi sono target che la società riuscirà effettivamente a raggiungere. Ancora tra i titoli di Impregilo, Saipem, perché ce ne siamo un po' distratti, mettiamola così, su Saipem in questi giorni dopo la batosta presa la settimana scorsa. Oggi però Saipem ha annunciato una commessa da 3 miliardi di dollari che in parte era già prevista. Il titolo non è che ne abbia avuto molto beneficio, anzi meno 2,70%. No, assolutamente no, anzi la commessa, come giustamente dicevi tu, era sostanzialmente prevista da quelle che erano già state annunciate dalla società come nuove acquisizioni. Il mercato continua a essere scettico, del resto due profit warning nel giro di 6 mesi non sono una cosa usuale per il mercato, per gli operatori, e resta una forte diffidenza nei confronti della società. Quest'anno Saipem chiuderà, come sappiamo, con una perdita tra 300 e 350 milioni di euro, e se pensiamo che fino a pochi mesi fa valeva oltre 30 euro, oggi ne vale 12,8, insomma sono numeri eloquenti. Ancora la Popolare di Milano, ne parlavamo anche ieri dopo l'assemblea che ha decretato che non è cambiato nulla, c'è un faro della Consob sull'elezione del presidente del consiglio di sorveglianza. In pregiro, scusami, l'ho citata ma poi non abbiamo parlato, in pregiro Salini, perché sì, il CDA appunto ieri in serata hanno approvato il processo di fusione con un concambio di 6,45 azioni in pregiro, ogni azione Salini. Sì, come dicevamo, è stato appunto approvato questo piano di fusione, un piano che darà il vita al primo general contractor italiano, a quello che insomma tutti dicono sarà il nuovo campione nazionale, numeri ambiziosi, numeri importanti, e che oggi insomma il mercato ha deciso di premiare in questo modo, col titolo oltre i 3 euro. Andiamo verso i migliori e peggiori. Volete sapere di Enel ed Eni? Poco mosse, leggermente negative. Enel ha perso lo 0,50%, Eni meno 0,80%. Sì, è vero, di tutti i titoli bancari quello che ha perso meno è sicuramente Intesa San Paolo, che ha ceduto solo lo 0,50%. C'è qualche motivo particolare? No, anche Unicredit, che è uno dei principali titoli. I due più grossi, diciamo, hanno perso meno della media del mercato, sia Unicredit che Intesa San Paolo. Andiamo avanti, migliori e peggiori, dicevo, Mer Tecnimond meno 11,80, industria e innovazione meno 8,20, Bastoggi meno 7,5, Banca Popolare, e lo dicevamo, dell'Emilia Romagna meno 6,56, Seat Pagine Gialle meno 5,56, Credito Bergamasco meno 5,58. Fronte opposto invece Impregilo, come tu ricordavi, più 18,42%, il miglior titolo in assoluto, Servizi Italia più 7%, Mondadori più 6,70% e poi Safilo più 4,15%. Grazie a Ciao Condi, la Radio Cori, il Sole 24 Ore. Adesso c'è il traffico. Un'altra estate in cui si ballerà, non lo so, a giudicare da alcuni vari segnali, in realtà non omogenei, per fortuna il rischio c'è. Perché lo dico? Perché per sommi capi è iniziato la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, 2 settimane fa, ha detto in sostanza, visto che l'economia americana è tornata a crescere, la disoccupazione a calare e un'inflazione un po' a salire, io smetterò di essere così accomodante, che poi per una banca centrale non è che ti fa le carezze, ti porta fuori a cena, vuol dire semplicemente che smetterà di tenere i tassi a zero e ridurrà fino a eliminarle l'acquisto di titoli di Stato americani, quindi smetterà o ridurrà di molto lo stampaggio di moneta, quindi basta stampare dollari, ne stamperà sempre di meno, basta acquistare debito americano, la Federal Reserve acquista ogni mese circa 85 miliardi di dollari di debito, e come lo fa? Lo fa stampando dollari. E come li paga questo debito? Stampando dollari, e basta con i tassi a zero. Questo ha spaventato i mercati, che si erano ben abituati alla droga, diciamo così, dei tassi bassi, della liquidità. Poi ci si è messa anche la Cina, crescita inferiore alle attese, dubbi sulle banche cinesi che hanno prestato soldi in maniera, diciamo, non seguendo Basilea 3, per metterla così, ma seguendo anche le indicazioni del Partito Comunista Cinese. E vabbè, e la Cina rallenta, ma rallenta anche e soprattutto per l'export che non va, e l'export cinese non sta andando soprattutto in Europa. Infine anche certi report, io non voglio fare la polemica, però, ma che senso ha scrivere "i tempi stringono, la situazione per l'Italia sul piano macro non è migliorata nello scorso trimestre, piuttosto il contrario, sarà inevitabile che l'Italia chieda entro 6 mesi un aiuto all'Europa, altrimenti il rischio è quello di default, di fallimento". Lo scrive l'analista Antonio Guglielmi per Mediobanca in un report riservato, che di riservato non ha nulla, nel senso che è finito dappertutto, sui siti, sui giornali, sul Daily Telegraph, oggi. A lui preoccupano moltissimo il differenziale di rendimento tra BOT e BTP, che maturano nella stessa data, cioè scadono nella stessa data, il 31 luglio, e pagano rispettivamente lo 0,48% e lo 0,74%. Una differenza motivata dal fatto che i BOT non sono mai stati coinvolti nei processi di ristrutturazione del debito. Secondo questo rapporto, per mettere il paese in sicurezza servirebbero interventi per 70 miliardi di euro, e Guglielmi paragona l'attuale situazione del paese a quella dell'uscita dal sistema monetario europeo nel 1992. Solo che nel 92, chi c'era se lo ricorda bene, la lira uscì dal serpente monetario e per un giorno non si riuscì nemmeno a cambiarla in banca, però poi ci fu una fortissima svalutazione della lira che consentì, diciamo, a tutta l'Italia di recuperare competitività. Svalutando avevi meno ti costava, i prodotti italiani costavano meno, e recuperò produttività export sui mercati internazionali. Oggi questa opzione è impossibile. Detto ciò, adesso iniziamo a ragionare seriamente su questo report, ma ad Antonio Guglielmi, che non voleva farlo sapere, purtroppo è uscito, e a tutti quelli che si sono divertiti a far uscire un report che rischia di creare panico, va il nostro gufo sudato, sudatissimo. Dottor Mario Sprafico, direttore investimenti di Schroders Italia, buonasera. Buonasera. Vuole un gufo anche lei? No, ne ho abbastanza. Dove ne ho abbastanza. Ah, ne ha già avuti da noi abbastanza. No, ma in generale ce ne sono stati tanti che ne ho sentiti. Ecco, allora, è sempre brutto commentare un collega, però non me ne frega nulla. Mi dice semplicemente, intanto com'è possibile, cioè, io faccio un ragionamento da questo punto di vista di sistema. Se uno scrive una cosa del genere, può anche scriverla, se la fa vedere a 10 persone è una cosa molto molto riservata. Qui è uscita su tutti i giornali, ma com'è possibile? Per chi era sto report poi? Allora, io questo non lo so, nel senso che io chiaramente mi sono limitato a leggere il report dalla stampa, perché chiaramente... Cioè, lei non è arrivato, vero? No, assolutamente. Quindi un report, anche perché sono concorrenti, giusto? Quindi io ho letto dalla stampa quello che chiaramente poi andava anche letto, perché mi sembra che poi sono considerazioni anche molto più articolate. C'è da dire però la cosa interessante è che ci eravamo abituati, ormai sembrava troppo bello, avevamo... tanti analisti che volevano stupire con effetti speciali, soprattutto un anno fa quando eravamo nel mezzo della crisi, ci eravamo abituati a non sentirne più. In quel periodo ognuno diceva la sua, c'erano le percentuali addirittura di probabilità che si verificasse un evento di default oppure no, poi chiaramente dopo si è visto che erano tutte previsioni abbastanza strampalate. Ora, adesso rimetterle in gioco in questo momento è anche molto facile, perché devo dire onestamente che con quello che è successo nelle ultime settimane, se non osservato dall'angolazione italiana ma da un'angolazione internazionale, è anche molto facile cercare di stupire con effetti speciali quando c'è una situazione in questo momento di, chiamiamolo, di volatilità e di correzione dei mercati. Ecco, quindi questo. Poi su quelle che sono le considerazioni io non sono assolutamente d'accordo, su quello che sono le idee di questo o quel teorema che nasce da questo report, però questi sono punti di vista completamente diversi. No, allora ragioniamo invece di questo, perché mi interessa molto. Allora, a parte il fatto che io temo sempre, vabbè, non è questo il caso, però ci sono profezie che si autoavverano. Se noi iniziamo a tirar fuori dei report in cui si dice attenzione, l'Italia a rischio default, attenzione, chiaro che poi gli investitori iniziano a vendere, tu vai veramente a rischio default, vai veramente a rischio fallimento. Ecco le profezie che si autoavverano, no? Perché poi crea un effetto panico tale per cui obiettivamente poi le pressioni le vedi. Però, Sprafico, per non dare, io poi non so se abbia ragione o torto Guglielmi, è un po' di settimane che qualche tensione sul nostro debito la vediamo. Oggi l'asta dei CTZ ha visto raddoppiare il rendimento, lo spread è salito a 310. Ma assolutamente, ma però ecco, non è questo che crea. Allora, ancora innanzitutto osservare questo fenomeno delle ultime settimane, quello che è successo, la Federal Reserve che ha ricordato. Cioè, non dobbiamo ricordare che i mercati obbligazionari, soprattutto il mercato del debito, ha avuto a livello internazionale delle performance eccezionali nel corso degli ultimi 18 mesi. In poche parole, gli investitori professionali e anche non professionali hanno guadagnato tutti sul debito. Guarda caso la chiusura di un semestre importante, quindi mancano pochi giorni al 30 giugno, quindi sono date molto importanti per la chiusura dei bilanci, avviene questo tipo di fenomeno. Selling May, go away, siccome maggio è stato un mese di pioggia, selling June, go away. Cioè lei dice tutte le posizioni dei gestori, traduco cercando di semplificare, dei gestori di chi ha investito, può avere un interesse a vendere adesso? Perché chiude le posizioni con un guadagno, passa l'estate e si riparte. Ma non c'è dubbio, anche quello che noi in gergo chiamiamo unwinding, cioè smontaggio proprio delle posizioni. Ricordiamo che tutte le cosiddette asset class di debito, cioè dai titoli statunitensi, tedeschi, inglesi, hanno avuto nel corso di un anno e mezzo delle performance eccezionali, corporate bond, ne possiamo aggiungere tra cui anche il debito italiano, che soprattutto negli ultimi mesi ha recuperato terreno in modo straordinario insieme agli altri mercati. Quindi questa è stata una globale presa di profitto. Ecco, resti con noi perché una spiegazione in parte lei ce l'ha già data, attenzione, ci sta vendere adesso, chiudere le posizioni e poi ripresentarsi sul mercato a settembre. Resti con noi dopo il GER, restiamo sul tema. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Alle 18:08 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, stavamo ragionando con Mario Sprafico, direttore investimenti di Schroders Italia, di questa della situazione complessiva, ma anche e soprattutto di questo report dell'analista di Mediobanca Antonio Guglielmi. Sprafico, dicono alcuni ascoltatori, non capisco però l'obiezione, dicono: ma chi ha investito in titoli di Stato inizio anno ha perso tutto. Ma a me non sembra, mi scusi, forse si riferiscono all'azionario. Penso che abbiano capito male quando si diceva che molti operatori possono vendere adesso per trarre profitto dalla crescita e poi ripartire a settembre. No. Assolutamente, ma anzi devo dire che il trend da inizio anno dei titoli di Stato, qualsiasi tipo la scadenza, sia breve che medio lungo termine, qualsiasi tipo di mercato ha avuto una performance positiva. Chiaro, chi è entrato probabilmente un mese fa sui massimi rischia di aver perso qualcosa, ma perso tutto è una parola esagerata, insomma. Ecco, per quello che riguarda invece il rischio fallimento, altri scrivono, insomma, l'Italia prima di arrivare a chiedere aiuto all'Europa avrebbe anche la possibilità di vendere qualche asset, cioè ci sono altre misure che si possono prendere prima di arrivare a quello che prevede come quasi inevitabile questo analista di Mediobanca, e cioè appunto un intervento europeo. Ma assolutamente, vengono a volte su questo tema vengono fatti dei conti lasciando perdere una serie di addendi, cioè dobbiamo ricordare che l'Italia insieme a altri pochi paesi al mondo, ad esempio uno il Giappone che è un paese altamente indebitato, ha una ricchezza finanziaria pro capite, ma soprattutto in termini aggregati che è 7 volte rispetto al proprio debito, quindi è difficile pensare che un paese con questo tipo di dinamica possa entrare in un default. Il nostro problema è che effettivamente abbiamo un debito in circolazione cartolarizzato che è effettivamente elevatissimo e quindi nel breve termine è il mercato è più sensibile in assoluto a subire delle grosse variazioni, ma parlare di default è una parola secondo me quasi criminale in questo momento. Sì, quantomeno rischi di creare l'effetto panico. Devo dire che su questo è stato molto netto anche il giudizio di Emma Marcegaglia, che oggi è diventata neopresidente degli industriali dell'Associazione degli Industriali Europei, e alla domanda posta da Bruxelles, ma insomma c'è un rischio default dell'Italia, ha detto in maniera molto tranchante: chi parla di default non sa quel che dice, poi invitando il governo ad agire però sulle privatizzazioni e sulle riforme ancora più profonde. No, io non ci credo assolutamente, non ci credo perché noi abbiamo comunque, è vero che abbiamo un debito alto, ma abbiamo il deficit più basso dopo la Germania, abbiamo, le nostre banche sono sane, alcune hanno già fatto ricapitalizzazioni, non hanno asset diciamo tossici come le hanno come altro, abbiamo ancora, per quanto sia calato, un livello di risparmio e un livello diciamo di ricchezza delle famiglie, per quanto ripeto la crisi l'abbia abbattuto molto pesantemente, ancora importante, abbiamo ancora un sistema manufatturiero nonostante la crisi che regge, siamo ancora i secondi più grandi esportatori dopo la Germania, quindi chi parla di default non sa quello che dice. Credo che però l'Italia deve andare avanti con le riforme, il governo ha iniziato bene, adesso credo che debba fare riforme più profonde, non bastano le piccole cose fatte che sono positive, io penso che bisogna veramente fare una grande opera di taglio della spesa pubblica per tagliare le tasse e io penso che bisogna riprendere anche le privatizzazioni, perché noi dobbiamo abbassare velocemente questo debito del 130%, non tanto perché non è sostenibile, ma quanto perché vuol dire un sacco di soldi che noi paghiamo in termini di oneri finanziari a chi sottoscrive titoli del debito pubblico italiano. Mario Sprafico, nel salutarla chiedono molti ascoltatori che fare chiaramente con le posizioni aperte, nel senso se uno è sull'azionario in questo momento e soprattutto se vuole comprare titoli di Stato. Lei che suggerisce, visto che poi fa il direttore investimenti di Schroders? Questo rialzo dei rendimenti, soprattutto sui titoli di Stato italiani, secondo me è un'opportunità di acquisto. Anche per quanto riguarda la correzione dei mercati azionari è un'opportunità in questo momento, certamente con una certa gradualità. È comunque importante non pensare che i tassi di interesse non saranno così bassi all'infinito, soprattutto nei mercati al di fuori dell'Italia. E quindi dollaro soprattutto, con quello che ha detto Ben Bernanke. Grazie a Mario Sprafico, direttore investimenti di Schroders. Io però vorrei restare sul tema, perché la preoccupazione c'è e l'ha espressa oggi il Presidente del Consiglio Enrico Letta, preoccupazione per il ritorno delle tensioni sui mercati, non solo sul mercato italiano, ma anche e soprattutto sul tema del lavoro. Vi ricordo che questa settimana è cruciale perché nell'arco dei prossimi 2 giorni il Governo deve portare il documento, il Ministro Giovannini, per l'occupazione giovanile, 1 miliardo, vediamo cosa ci sarà. E poi giovedì e venerdì c'è il Consiglio Europeo dedicato alla crescita, in cui si capirà quali sono le resistenze tedesche sotto elezioni la Germania e dei paesi del nord. Letta sulla crisi. Porrò l'accento una volta ancora sul dramma del lavoro che non c'è, sugli oltre 15 milioni di ragazzi senza un'occupazione, una prospettiva, un'opportunità di realizzazione, sull'Europa che o dà risposte concrete e immediate a problemi epocali come quelli che viviamo oppure lentamente muore. Un'Europa che stenta ad uscire dalla recessione, nella quale il livello degli investimenti pubblici è crollato negli ultimi anni e il rubinetto del credito bancario si è contratto drasticamente in alcuni Stati membri. Un'Europa che non riesce a riprendere velocità e nella quale le ombre sulla tenuta della moneta unica non sono ancora state fugate del tutto. Sono bastati negli ultimi giorni le notizie arrivate da 2 posti così lontani e diversi tra loro: Karlsruhe, sede della Corte Costituzionale tedesca, Atene, con la decisione del governo greco di chiudere la televisione pubblica, per dare il segno che la crisi non è ancora finita, per riportare immediatamente l'attenzione sui mercati, far salire i tassi di interesse sul nostro debito e su quello degli altri paesi europei. Allora, il gufo gliel'abbiamo dato all'analista di Mediobanca Antonio Guglielmi, le critiche le abbiamo mosse. Detto questo, vediamo, gli elementi ci sono. I CTZ oggi, lo ripeto per la terza volta, hanno raddoppiato il loro rendimento, non è una buona notizia, dall'1,1% di maggio per trovare compratori per il nostro debito con i CTZ a 2 anni, abbiamo dovuto offrire il 2,4%. Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Sprafico la pensava in maniera diametralmente opposta a Guglielmi, ma insomma qui c'è un report di Mediobanca che sta girando oggi anche sul Daily Telegraph, i CTZ che aumentano i rendimenti. Insomma, è inutile negare che da un mese lo spread a 310 poi un po' disceso, non siamo ai livelli del novembre 2011, però rispetto a un mese fa le tensioni ci sono tutte. Che sta succedendo? Sta succedendo, potremmo riassumerlo dicendo la festa è finita, nel senso che tutta quell'allegria che era stata generata dall'immissione di liquidità fortissima, quando diciamo liquidità si chiamano soldi alle banche, grosso modo, dalle banche centrali alle banche commerciali, e queste a loro volta comprarono titoli di Stato e azioni. Che cosa ci ha portato? All'indice Standard & Poor's, che una settimana fa ha segnato il record storico, i tassi di interesse, come si dice in inglese, across the board, ovvero attraverso tutta la linea dei paesi e dei rendimenti, verso i minimi storici. Addirittura io ricordo poche settimane fa, 10 giorni fa, registrammo i bot a 2 anni al minimo precedente all'euro. Adesso il vento è cambiato. Per quale motivo? Perché il mercato ha cominciato a capire che la festa, cioè l'abbondanza di liquidità, non durerà in eterno. Non è un caso se oggi alcuni banchieri centrali, da Draghi, ma anche i governatori della Fed locali, hanno detto: ma no, insomma, non chiuderemo subito il rubinetto della liquidità. Si sono spaventati anche loro della reazione del mercato. Che cosa significa? Significa che ci vuole una grandissima attenzione in questo momento a recuperare quei fattori di risanamento che avevamo impostato nel fine 2011 quando ci fu la crisi sostanzialmente. Quindi faceva bene, sentivo prima la Marcegaglia a dire attenzione perché noi abbiamo un attivo delle partite correnti sensibile e l'Italia se non fosse per il deficit, per la spesa che abbiamo sui carburanti, noi avremmo una bilancia commerciale eccezionale. Certo. Per cui gli investitori queste cose le guardano, non è che non restano indifferenti a questo. Allora, basta questo per tenerci a galla? No, perché serve anche un quadro politico stabile, l'idea che non si navighi a vista tra processi e tra polemiche fra partiti, perché anche questo conta. Oggi, insomma, vedo su tutti i siti internazionali le vicende italiane sono tornate a parlare non di economia o di macroeconomia ma di altri fattori, e questo sicuramente non ci aiuta. Comunque non ci aiuta nemmeno in questo senso l'incertezza su quella che sarà le elezioni tedesche, quale sarà l'Europa, saremo in grado di fare l'unione bancaria, non saremo. Oggi per esempio la Tobin Tax, che sembrava un cardine, la Tobin Tax, lo ricordiamo per gli ascoltatori, è quella tassa tipo l'IVA ma che si applicherebbe soltanto alle transazioni finanziarie fra, certo, le banche e gli intermediari. Ecco, l'Italia è stata la prima ad approvarla sulla base della direttiva europea, poi l'Europa ha fatto marcia indietro e noi siamo rimasti avanti. Per cui in Italia ci sarà la tassa e nel resto d'Europa no. Allora anche lì si crea tensione sugli investitori, perché dico, perché devo andare a fare operazioni in Italia se me le tassano e non le faccio allora in Germania piuttosto che in un altro paese europeo? E questi sono problemi. Per concludere, che cosa possiamo dire? Bisogna stare molto attenti, perché la tendenza sarà al rialzo dei tassi ancora, e l'estate è un momento molto delicato perché ci sono meno contrattazioni. È quello che dicevamo prima. E quindi bisogna stare molto attenti. Allora, che estate avremo? Ci interessa, anche perché il programma sarà in diretta, chi vi parla sarà qui buona parte dell'estate, poi qualche giorno di ferie me lo prendo anch'io, però che estate avremo dopo, cerchiamo di capirlo, dopo le informazioni sul traffico, allargando l'orizzonte anche, ma tu già vi accennavi, al resto del mondo. C'è anche la tensione che arriva dalla Cina, PIL in calo e timori sulle banche di medie dimensioni cinesi, ma insomma il messaggio arrivato dalla Banca Centrale Americana che la politica accomodante viene meno, si stamperà meno moneta, i tassi tornano a salire, ha creato forse un effetto, una reazione. Posso, mi permetti solo, prego, per chiudere? È ora che le buone notizie tornino ad essere buone notizie. Quello che dice la Banca Centrale Americana, giusto, è una buona anche notizia. Anche noi dobbiamo essere lì a dire ma basta con questa cosa, che ogni volta che la disoccupazione scende diciamo oddio tolgo una liquidità. Togliete la liquidità e ridatemi l'occupazione. Questo che guarda, e vorrei citare l'esempio che ha fatto l'economista stadounidense Masciandaro la settimana scorsa, dicendo è come se tu a un tossicodipendente a cui davi il metadone dicessi adesso ti riduco il metadone perché sei meno dipendente. È una buona notizia. Il problema è che il tossicodipendente in quel caso magari la vede come una cattiva notizia perché si è abituato a prendere il metadone. E questo è un po' l'esempio un po' forte. Non dobbiamo cadere nella trappola dei mercati. I mercati ci dicono vogliono liquidità, noi vogliamo occupazione. Se i segnali sono quelli, togliamo la liquidità dei mercati e subiamo anche questo. Ma se non altro. Sono d'accordo perché le esigenze di chi investe non necessariamente sono le esigenze dei cittadini di un paese. Esatto, traffico e poi di nuovo in diretta. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni assieme a Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Chiarisco la frase di Platerotti di prima. Delle volte le notizie che sono cattive per i mercati, la borsa vende, gli spread aumentano, i rendimenti dei titoli di Stato salgono, sono buone notizie per la gente comune. Faccio un esempio, la disoccupazione che citava prima. Ogni volta che la disoccupazione cala, e quindi è una buona notizia, ci sono più occupati, la borsa va male. Perché? Perché fai il ragionamento, se la disoccupazione cala vuol dire che l'economia cresce, se l'economia cresce aumenteranno i tassi di interesse e io vado a vendere. Allora, è un classico esempio in cui l'interesse del mercato che ci sia più disoccupazione perché i tassi stanno bassi, esatto, liquidità è opposto all'interesse del cittadino, no, perché noi tutti vogliamo che la disoccupazione cali. Quindi se ho ben capito il tuo ragionamento, ma che ti chiedo di articolare Alessandro, bisogna stare attenti a non farsi fregare che una buona notizia come il fatto che l'economia americana si sia ripresa bene in maniera solida, tant'è che la Banca Centrale Americana dice vi darò meno aiuti, stamperò meno moneta e terrò i tassi un po' più alti, a non leggerla come vorrebbero i mercati, come una cattiva notizia. Allora mi spiego, la borsa è denaro virtuale, nel senso che quei prezzi sono i prezzi teorici, io compro e vendo, quell'azienda ha un certo valore. Allora in questo momento, da un po' di anni, che cosa è successo? Ci siamo purtroppo abituati a misurare la salute di un'economia e di un sistema sulla base dell'andamento della sua borsa e dei suoi titoli di Stato. Cosa peraltro legittima, no? Dovrebbe rispondere a quello, tutto sommato i prezzi riflettono l'andamento delle aziende che sono legate a un'economia globale, locale. Questo va bene, però che è successo? Ormai da un po' di anni ci preoccupiamo soprattutto della reazione della borsa e dei mercati a degli annunci che vengono fatti in campo economico. Allora, che succede? Ci siamo così abituati a reagire male, facevi l'esempio della disoccupazione, lo riassumo così, in America vedono che la disoccupazione sta scendendo, partono dal presupposto che l'economia sta ricominciando a tirare, se l'economia tira c'è meno bisogno di regalare soldi alle banche come stanno facendo, per cui non glieli regalano più. Le banche che fanno? Vendono titoli in modo che l'opinione pubblica reagisce a livello emotivo dicendo oddio, crolla la borsa, crollano i titoli di Stato, continuate a dargli denaro. C'è un circolo vizioso che si è messo in moto, per cui le notizie positive diventano negative. Beh, io credo che questo sia il momento di tirare una linea e di dire basta, le notizie positive per noi sono positive, tant'è vero che anche noi del Sole stiamo cercando di enfatizzare, di spiegare meglio questi famosi segnali positivi dell'economia quali sono, perché altrimenti guardiamo solo l'indice che cade della borsa, la Cina che mette paura all'Asia. Noi dobbiamo tutti ricominciare a capitalizzare, a costruire sulle notizie positive. Questo vale anche per le aspettative della gente, perché qui le abbiamo depresse totalmente. Se uno vede che la borsa cade del 4%, i giornali che dicono l'economia americana tira, i mercati crollano, dice beh allora speriamo che l'economia americana non tira se i mercati crollano. No, è psicologico, bisogna dare un segnale, io credo, proprio ai mercati in questo momento, che l'opinione pubblica europea, italiana, gli economisti, gli analisti, noi giornalisti siamo stanchi di lasciare andare, di assecondare questo andamento dei mercati che fa diventare negative le notizie che dovrebbero essere positive e per l'economia e per i mercati e per la collettività. Cioè diciamo che sono notizie negative perché per le banche e per gli investitori. Negative per quale motivo? Perché non regali più soldi a questi soggetti. Certo, però per questo. Tra virgolette, chi se ne frega se sono negative per le banche, per alcuni investitori. E si adeguassero anche loro. Ecco, su questo però alcuni ascoltatori dicono, beh non è così semplice, se la borsa va male, gli spread aumentano, ce ne siamo già accorti nel passato, questo fa da detonatore al sistema e fa crollare è la vero, fiducia. E noi gli rispondiamo come? Ha ragione. E noi gli rispondiamo in coro. Abbiamo detto che bisogna poi mettersi in ordine in casa, nel senso che se l'America cresce, perché l'America ha fatto le riforme, noi dobbiamo crescere, altrimenti che cosa subiamo? Subiamo il contraccolpo dell'America che cresce e taglia i regali alle banche e il contraccolpo di un'Italia che non cresce e che dipende sempre di più dagli altri mercati. Questo è il nostro problema. Allora io non voglio semplificare dicendo le notizie positive negative diventano, no, ma che noi dobbiamo far sì che da questo paese emergano notizie positive, perché i mercati prima o poi reagiranno. Sì, tra l'altro la situazione peggiore da vaso di coccio sarebbe se noi ci beccassimo, se diciamo, la sfiducia o la paura dei mercati senza un'economia che cresce, perché almeno in America l'economia cresce, i tassi, anche perché guardate il denaro non sparisce, è un po' come la legge di Lavoisier, nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi il denaro che esce da una parte passa da un'altra parte. Ci sono questi giorni nei grandi ribassi, ci sono società che hanno fatto miliardi giocando ad esempio sui titoli derivati, gli ETF a breve durata che proteggono dal rischio tassi. Ecco, allora esce dalla borsa, no, è sempre borsa, ma sono classi di attività diverse. Allora, alcuni dicono, ma voi siete anche nervosi e depressi? No, guardi, no, non so, poi magari nel privato non entro, ma nel professionale no, assolutamente, è per questo che ritengo veramente eticamente anche preoccupante quello che è successo con il report di Mediobanca, perché una cosa del genere, o la leggono in 10 e vabbè, se la raccontano in 10, o la pubblichi per tutti e allora ce l'articoli bene, se no... a spizzichi e bocconi sentir dire che l'Italia a rischio default entro 6 mesi. Guardate, ci sono stati grandissimi economisti francesi, americani, che teorizzavano il default dell'Italia per la primavera del 2011. Non ricordo benissimo. Ricordate, parliamo di nomi grandi, prestigiosi degli economisti internazionali, non solo quindi Mediobanca, che è una banca di casa in questo senso. Ecco, queste sono, le chiamano profezie, non le chiamano analisi. Non si può dire l'Italia andrà in default sulla base di quale calcolo. Il gettito fiscale ancora tiene, per esempio. Infatti, allora... Ma tra l'altro giustamente si faceva notare prima che il nostro deficit è più basso di quello degli altri paesi. Cioè ciò non significa che dobbiamo metterci, questo è un paese che spreca soldi, li butta dalla e domani finestra, torneremo a parlarne di come sprechiamo soldi, è un po' di giorni che la rubrica è sospesa, ma tornerà perché le notizie sulle regioni e sugli enti locali, ma non sono, si stanno accumulando, così come torneremo a parlare del piano del governo per il lavoro. Domani tra l'altro il Sole 24 Ore esce con tutto uno speciale sul decreto del fare, per cui le spiegazioni di cosa 24 pagine, non a caso è solo 24 ore. Che battuta indegna che ho fatto nel finale, chiedo scusa agli ascoltatori. Vi do appuntamento a domani dalle 17 in poi, tranquilli, passate una buona serata, domani si ricomincia. Intanto ci risentiamo dalle 17.05 per la precisione in poi. Radio 24, la passione si sente.